24 Storie di star. Ma non c'ha mamma più, mai foto tu. Distrattamente pensa. Il 13 marzo del 2003, all'età di 91 anni, si spegne nella sua casa al Vomero Roberto Murolo, cantautore, musicista, attore. Murolo è tra i più grandi interpreti della canzone napoletana. Dopo una lunghissima carriera, a 90 anni, saluta le scene con un ultimo album, Ho sognato di cantare, lasciando a noi la sua voce e le sue indimenticabili melodie. Oggi a Mix 24 ripercorriamo la sua vita artistica fatta di indimenticabili successi e di collaborazioni musicali premiate da pubblico e critica. Nel marzo del 2002 il Festival di Sanremo, in occasione dei suoi 90 anni, gli tributa un premio alla carriera, un riconoscimento per l'eredità e la testimonianza artistica di questo straordinario protagonista della musica partenopea. Roberto Murolo. Voglio dire a tutte le persone di comprare solo dischi originali, perché quelli falsi portano male. A 90 anni si può accettare un premio alla carriera. Un premio alla carriera che avrebbe potuto già avere a 40 anni, perché aveva già cantato meravigliosamente quelle canzoni di quegli anni meravigliosi di fioritura della canzone napoletana, anche moderna. Penultimo di 7 figli, Murolo nasce in una famiglia bene di una Napoli nobilissima. La madre è toscana. Il padre Ernesto è poeta, drammaturgo e compositore di canzoni napoletane. Probabile figlio illegittimo di Edoardo Scarpetta, il grandissimo commediografo napoletano, padre di Edoardo, Peppino e Titina De Filippo. Insieme a Salvatore Di Giacomo e Libero Bovio, rappresenta l'epoca d'oro della canzone napoletana. Figlio d'arte, a 26 anni, Roberto Murolo inizia la sua carriera col Mida Quarter. 8 anni di tournée a Parigi, Zurigo, poi ancora in Belgio, Spagna, Grecia, Germania, Polonia, lontano dalla sua famiglia, dalla sua terra e dal suo paese. Quando le scarpe strette divento tutto blu, quando le scarpe strette ci vedo quasi. Roberto stava in tournée con questi amici a Berlino quando all'ambasciata, e cantava soltanto due canzoni napoletane, con il quartetto però. Quando all'ambasciata arriva Galeazzo Ciano, il ministro del Duce, e dice: ma voi siete napoletano, io voglio sentire un'altra canzone napoletana solo da voi. E gli chiese di Citincello Buio. Di Citincella sta compagna vostra, c'ha perduto suo ne ha fantasia. Il giovane Murolo si rivela non solo un grande della canzone, ma anche un grande sportivo. Pur non essendo iscritto alla Gioventù Universitaria Fascista, Murolo vince nel 1937 il campionato italiano universitario di tuffi. La sua specialità è la piattaforma dei 10 metri. Sentiamo la sua stessa voce e poi il giornalista sportivo Italo Cucci. Io sono amato moltissimo lo sport, specialmente i tuffi dalle piattaforme di 10 metri. E infatti vinsi un campionato molto importante, vinsi un campionato d'Italia universitario. Avevo 25-26 anni. I trampolini di quei tempi erano delle trappole di legno, eppure si vede nel gesto atletico di quest'uomo che pensava forse più alla musica che allo sport anche in gioventù, si vede la cura particolare del corpo, la sua bellezza. Ma è la musica la grande passione di Murolo. Studia chitarra, inizia con le sue prime esibizioni vocali. Poi tra il 38 e il 46, negli anni trascorsi all'estero, Murolo propone con il suo gruppo grandi successi. Un repertorio sia nazionale che internazionale, tra cabaret e avanspettacolo. Quando ho conosciuto Woody Allen e ho dovuto fargli un regalo per festeggiare la nostra amicizia, io non ho pensato ad altro oggetto se non al CD della canzone napoletana di Roberto Murolo, perché è un'opera che rimane nella storia della musica in Italia. Sono i libri di testo della canzone napoletana che tutti dovrebbero studiare. Nella napoletana mancano però delle dei guizzi o delle cose un po' diverse come Roberto ha fatto. Per esempio le canzoni in spagnolo. Ai desesperatamente. Era Desesperatamente, uno dei primi successi di Roberto Murolo quando ancora girava il mondo e non aveva scoperto di essere il più grande cantante napoletano. Con le note e le parole di Roberto Murolo ritorniamo dopo la viabilità. Mix 24, storie di star. Bentornati a Mix 24. Finita la guerra, Roberto Murolo torna in Italia. Da questo momento inizia la sua carriera da solista, che lo vedrà da subito come un protagonista della canzone d'autore, con un repertorio tutto napoletano. Un interprete eccezionale, prolifico, che al termine della sua vita avrà inciso oltre 1000 brani. Mi ero accorto, tornando dall'estero nel 1946, così, che con l'occupazione americana a Napoli, con i negri, quei militari di colore, e la musica, la canzone napoletana era andata un po' nel dimenticatoio, non si sentiva altro che quelle famose canzoni che faceva Leave that pistol down, man. E mentre si avvia verso una carriera da solista che incontra subito il favore del pubblico, Murolo si affaccia anche al mondo del cinema. Nella carriera dell'artista si contano 10 film in 4 anni, a cominciare da Catene, con Amedeo Nazzari e Yvonne Sanson, prodotto dalla Titanus, che nel 49 incassa la cifra record di 750 milioni. Ma ci sono anche Tormento, poi Falsari, Milano Milionaria, Menzogne e via, fino a Cavalli si nasce del 1989. Ascoltiamo allora uno scambio tra Renzo Arbore e lo stesso Murolo. Quando io vidi per la prima volta Roberto Murolo in carne e ossa, era un film che si chiamava Catene. Era con Amedeo Nazzari e Yvonne Sanson. Bravo. Ci hai fatto fare una capa di pianti, Roberto, perché io ero piccolo, ma mio padre, mia madre, con certi fazzoletti bianchi, al cinema tutti che piangevano quando lui cantava una bellissima canzone dai migranti. Lacrime napoletane. Vence una costa lacrime d'America. Anche tu vai in America per far fortuna? Sì. Gran paese l'America. Io canto e suono la chitarra, ma mi adatterò a qualunque lavoro. Vuoi fumare? Grazie. Cinema, sport, musica. Il successo di Murolo è inarrestabile e cresce il numero degli estimatori. Lo stesso Federico Fellini, che Murolo incontra nel 93 nello studio televisivo di Prisma, confesserà che il suo grande desiderio era girare un film con Murolo sulla canzone napoletana. Ti ringraziamo intanto di essere venuto, Federico. Noi abbiamo pensato di farti una piccola sorpresa. Ci piaceva che... sappiamo che tu sei un appassionato di musica napoletana, che Napoli è una città che quantomeno piace molto, sì, ti affascina molto. Uno dei progetti così... che tengo, che accarezzo con particolare simpatia e che spero di poter realizzare, è proprio un film su Napoli. Tutti ma la canzone napoletana che ti ha affascinato di più? Stavo per chiederla, se mi accenna così, non soltanto per la gioia mia, ma di tutti quelli che ci ascoltano, Zazà. Che giustamente, scusi, voglio fare una piccola notazione storica, ogni tanto qualcosa di più. Qualcosa ci vuole, certo. Questa canzone così straziante e pazza, sì. Infatti è una canzone che pure nella sua grazia strampalata e nello strazio che sotto contiene, perché si tratta della perdita della donna amata, perduta durante una gran processione, una gran festa, e non più ritrovata. Sentiamola, grazie. Era la festa di San Gennaro, quanta gente mi via, con Zazà bellezza mia, e non andava a passeggiare. La personalità di Roberto Murolo era quella di alcuni grandi artisti, io l'ho riconosciuta in alcuni grandi artisti, cioè la personalità di un bambino, di uno che ama la vita, che piace giocare, che crede a tutto, lui è un credulone, noi gli facevamo scherzi con gli amici pesantissimi, facendogli credere delle cose, non so, che i topi si erano mangiati la sua macchina la notte, che era successo una cosa strana a Posillipo, bisognava correre, perché aveva l'ingenuità straordinaria del bambino. Un animo nobile, però anche infantile, che Dio lo benedica. E tu non pensi a me. Avete forse notato, quando canta Roberto, pensa intensamente a quello che sta cantando, pensa alle parole che dice e al significato delle parole. È una cosa che io ho capito che è il segreto del suo grande successo. Ho capito che, e io sono anni che sto cercando di individuare il segreto di Roberto Muolo, a parte la cassa armonica particolare che ha qua, e non so, cioè deve avere uno Stradivari qua dentro, una cassa armonica firmata da Guarnieri, da un grande, però ha una sensibilità straordinaria che gli porta, lo porta a vibrare con la canzone. Se è una canzone malinconica, Roberto è turbato ogni volta che canta una canzone malinconica, pensando alle parole, si immedesima perfettamente nel cantante, perché è la verità, per cantare come Roberto Muolo bisogna cantare sì col cervello, sì con la tecnica, ma soprattutto con il cuore. È da lì che arriva l'arte di Roberto Muolo. La chiave del successo dei grandi artisti è l'emozione. A raccontarlo lo stesso Muolo nel suo incontro con un altro grande della cultura e dell'arte napoletana, Totò. Era de maggio te cade aranzina, a schiocca a schiocca li c'erase rosse. L'emozione c'è sempre, forse anni fa ce n'era di più, ma ancora oggi è sempre un fatto emotivo. E Totò successe proprio qui a Roma, molti anni fa successe. Era uno spettacolo di beneficenza in un piccolo teatro romano, non mi ricordo qual era questo teatro. Comunque io mi trovavo sul palcoscenico insieme ad un gruppo di altri artisti e stavamo lì in attesa, il lavoro andava avanti, noi stavamo certo in attesa del nostro turno, eccetera. E a un certo momento si parlò appunto di questo fatto emotivo e improvvisamente vediamo Totò tutto raccolto in se stesso, passa, attraversa il palcoscenico sempre di spalle, con la testa giù, pensieroso. Un suo amico che stava tra questi presenti gli si avvicina e dice: «Principe, ma che state emozionato?» «Ma come no, quello è un piccolo teatro, uno spettacolo di beneficenza, state emozionato?» E Totò rispose queste parole: «Sì, sto emozionato, e chi non sta emozionato non è un artista». E sono tornato e mo come una volta cantammo insieme la canzone antica. Passa lo tempo, lo mondo sa vota, ma amore vero no, non vota vita. De te bellezza mia m'innamorai, si dà ricuore d'annanzi alla fontana. L'acqua alla tinta non si secca mai, è ferita d'amore, non si sa. State ascoltando un programma offerto da... Il colesterolo in eccesso può causare problemi al cuore. Danacol, grazie agli steroli vegetali, lo riduce fino al 10% in 3 settimane. Mix 24. Storie di star. Bentornati a Mix 24, la storia di Roberto Muolo. Nel 63 l'artista pubblica Napoletana, antologia cronologica della canzone napoletana. Un'opera omnia che ripercorre tutti i grandi successi della tradizione musicale partenopea, da Funiculi Funiculà a Era de Maggio a Reginella. canzoni intramontabili del repertorio napoletano che si fa fatica a non intonare. E allora sentiamo le voci di ammiratori speciali di Murolo, giornalisti, registi, autori televisivi, da Italo Cucci a Umberto Broccoli, da Gianni Minà, Antonio Di Bella, Alina Wertmüller e poi naturalmente lui, Renzo Arbore, allievo e amico di Murolo. La mia canzone preferita, ricordando le tante di Murolo, le tantissime, è quella che è poi è diventata l'inno ufficiale del Napoli, dei napoletani che vanno a fuori grotta. Oi vita mia, oi core, chi sto core, sei stato prima amore, o prima e l'ultimo sarà e per me. Scriva sempre sta contento, io non penso che adesso, non pensiero ma consola, che tu pure pensi sulla me. Ah, più bello di tutto è bello, non è mai più bello di te. Mi sono innamorato delle canzoni di Roberto Murolo e andai a comprare tutti i 45 giri che erano disponibili a quel tempo, quindi c'era La Cacciaforte, c'era Lacrime Napolitane, e c'era Chi sì, tu sia Canaria, chi sì, tu sia l'amore. In questo tradivo le mie origini partenopee, nel senso sono in parte partenopeo da parte di padre, ho fatto anche un gioco di parole. Quindi questo rappresenta per me Murolo. Per la canzone napoletana, dicevo, è inutile che io aggiunga parole a parole, è un pezzo di storia fondamentale della canzone napoletana. Io sono di Milano, ma come il 90% dei milanesi provengo dal sud, e in particolare da Napoli. Per me quindi riascoltare la musica e le parole napoletane da Murolo vuol dire, come per migliaia, milioni di persone che vivono al nord, riscoprire le proprie radici e ritrovare la propria identità. Ringraziandola anche per una cosa, la pronuncia, la dizione con cui interpretava le canzoni, sia in napoletano sia in italiano. Bellissima, dovrebbero impararlo ancora tanti interpreti della canzone italiana che spesso si mangiano le parole o storpiano addirittura la nostra bellissima lingua. Scalinatella longa longa, stretturella stretturella, scalinatella, scalinatella, e non azzardo di più. Scalinatella longa longa longa longa, stretturella stretturella, addosta che innamoratella non spunta ancora, zuc zuc zuc zuc zucculilla zucculilla, posta viarella scarrupatella. Bonagura, l'autore del testo, al quale io domandai a chi appartiene questa scalinatella, lui disse positano. Che peccato, me l'aveva pugnalato ora. Posso dire con grande sincerità che non ho mai visto Roberto Murolo arrabbiato, poco gentile con la gente, anche modesta, che lo avvicinava, che lo strattonava. Insomma, Roberto Murolo è veramente un signore napoletano, di quelli là. Di quelli là. Tiene titoli? Non tengo titoli, vive di rendita? Non vive rendita, non ho un vestito per quello. E allora la cascia che le serve? Sta cascia mi necessita per forza in la giave. Che ci deve mettere? C'ha già mettere tutte le lettere che mi ha scritto Rosina mia, la mozzone di una stearica che ho ficcato nella bugia. Non mano che si chiude. Che schifo. Una crostola specchio. La corteccia di un cacio vecchio, un fracassasso color cacchini. Ed è proprio Renzo Arbore, insieme al produttore Nando Coppetto, l'artefice della seconda carriera di Roberto Murolo negli anni 90. Con il doppio album Na voce e na chitarra, Murolo inizia il sodalizio artistico con Enzo Gragnaniello. Grazie al brano Con me, cantato insieme a Mia Martini, Murolo diventa protagonista di una nuova ondata di successi. Una canzone che certamente rimane nella storia della canzone napoletana, pur essendo una canzone relativamente moderna, perché è scritta soltanto pochi anni fa, è quella di Enzo Gragnaniello, cantata con Mia Martini e con lo stesso Enzo Gragnaniello. Fino con me fu una mare a trovare che le cantano in me fanno mare a trovare che la canta nimca. Vieni con me e accomincia a capire come è inutile sta a soffrire. Guarda sto mare che c'è un fondo in paura, sta cercando e c'è impara. Ti è venuta in mente quella canzone, quel grande successo che è stato? È stato proprio come fosse un disegno. Ho visto, per esempio, Roberto per me rappresentava il mare e Mia Martina era la tempesta, diciamo, un po' un quadro. E con loro, il produttore di Roberto, Coppito, Nando Coppito, ci siamo incontrati, abbiamo deciso di far cantare questa canzone. Però io l'ho scritta proprio pensando a Roberto. Alla coppia proprio. Alla coppia, sì. Nel 92 Murolo festeggia il suo 80° compleanno con l'album 80 Voglia di Cantare, che lo vede duettare con altri grandi artisti, Lucio Dalla, Peppino Di Capri, Tochigno, Lina Sastri, Renzo Arbore e poi Fabrizio De André. L'incontro con il grande artista genovese lo porterà a un nuovo incredibile trionfo. Insieme incideranno Don Raffè. A raccontare l'incontro tra i due artisti e Renzo Arbore. Roberto sentì la canzone di De André, Don Raffè, e gli piacque moltissimo. Allora chiese di conoscerlo e di cantare con lui, figuriamoci, De André aveva cantato anche delle canzoni tratte dalla antologia napoletana di Roberto Muro, per la quale credo che bisogna spendere qualche parola, perché è la più bella opera di canzoni napoletane che c'è in circolazione, La Napoletana di Muro. E sono praticamente tutta la storia della canzone napoletana, dal canto delle lavandaie del Vomero, quindi la più antica, fino alle canzoni più recenti. E quindi aveva cantato De André A Nova Gelusia, una canzone bellissima. Insomma, in pratica fecero questo concerto dove cantarono insieme Don Raffè. C'è sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo compendio che chi lo stipendio di un ambo se sogna papà. Aggiungetemi a figli innocenze, buon marito e non tenne pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba, la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello che al massi processo era vado che ho bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpuccine, gradito campare ho pulito caffè. Ah che bello caffè, pure in carcere usanna fa. La ricetta che ci c'è nella compagna di cielo ci ha dato mamma. Ah che bello caffè, pure in carcere usanna fa. La ricetta di Cicinella, compagno di cielo precisa mamma. Qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai viste chissà. Chi se so fatiscente, per chi sti fatiente se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io ve lo giuro, sarebbe un santo. Ma che dite voi state a pagare? E pure chissate se stanno a spazzare. A proposito, tengo un frate che da 15 anni sta disoccupato. Chi la fa? 50 concorsi, 90 domande, 200 ricorsi. Voi che date con forte lavoro, Eminenza, vi bacio, vi imploro. Roberto Murolo, maestro della canzone napoletana, nel 94 offre un tributo a Domenico Modugno, scomparso quello stesso anno, e incide l'album Tu sì una cosa grande, e continuano instancabili le sue collaborazioni musicali. E tira, tira, tira, ucciariella, sta carettella. Tirala tu e sona, sona, sono campanella, ma chi aspettava non c'è sta più. Vai Lucio! Una femmina bucciarda ammalassata, lontano da campagna se ne chiude. E ti tira, tira, tiro, ciucciariella, banata strada, portandomi tu. Questa canzone poi è diventata leitmotiv di un film, eh? Sì. Totò Peppino e la Malafemmina. E la Malafemmina. Sì, sì. Vogliamo... Totò e tu sai che si sono conosciuti, Totò e... Roberto. E Roberto, si sono... Sì, sì, sì. Perché, che è successo? A Capri, ancora... perché Roberto faceva questi tuffi, nuotava bene, e Totò gli disse: tu tieni un bello fisico, ma io sono più forte. Una femmina bugiarda la lasciare. T'ho fatto male? No, eccomi. Murolo non è uno che canta canzoni napoletane. Murolo è la canzone napoletana. Senza fine tu trascini la nostra vita, senza un attimo di respiro, per sognare, per poter ricordare ciò che abbiamo già vissuto. Non m'importa questa luna, non m'importa queste stelle, tu per me sei luna e stella, tu per me sei sole e cielo, tu per me sei tanto, tanto, tanto bene voglio a te. Era la voce di Gino Paoli. Amato dai colleghi e dal pubblico, il 26 gennaio del 95 Roberto Murolo viene nominato Grande Ufficiale della Repubblica per i suoi meriti artistici e poi, nel gennaio del 2002, la nomina Cavaliere di Gran Croce, onorificenza alla sua lunga, lunghissima carriera. Quando venite udita aizzata, così è il momento che entrate, entrate nel coro, non prima, schiarite la voce. Che guarda la vita, te un grifo come un gatto, non ne che t'accio fatta, che non mi puoi vedere. Io t'accio amata tanto, si t'amo tu lo sai, io te voglio bene assai. Tu non pensi a me, io te voglio bene assai, e tu non pensi a me. Ma siete bravissimi, bravi a tutti! Che rimane di Roberto Murolo? Beh, rimane la sua casa piena di ricordi, rimane... E rimangono il ricordo degli amici, rimane la Fondazione Roberto Murolo, retta dal suo produttore Nando Coppeto, che è una fondazione che ha come proprio ragione sociale quella di come dire, riscoprire e continuare la tradizione nobilissima napoletana della canzone d'autore, della bella canzone napoletana, bella per i versi e bella per la musica, per la melodia. Cos'è questa? Tu che tu sono un coppe giornalette e mamma da saraccia e panto dominaccia. Si schiaffata in capo sti fumetti, ti senti un torero che a spasso se ne va per le vie di Santa Fe, per le strade di Hollywood, e innamorata dove non trovo più torero. Cia cia, si schiaffata in capo sto sombrero, cia cia cia, e il giro di spagnolo non ne ho vero, cia cia cia, e nacchere da sacca va a ballà mescolando bolero casambio, cia cia cia, torero. Si basetta sudamericano, un usigare avane a gambe se le piche, torero, torero, olè. Alberto Muro canta la canzone napoletana. Vero. Non so quanto ci sia di folk nella canzone napoletana. Sì, tu dici bene, io canto la canzone napoletana, è verissimo, anzi la bella canzone napoletana, quella scritta da grandi poeti e da grandi musicisti. Tu pensi che possa nascere ancora a Napoli una canzone proprio popolare, cioè con i canoni della musica folcloristica? Io penso che il folk debba essere un'espressione popolare, proprio magari di chi non conosce affatto la musica o di chi non conosce addirittura unire delle, cioè creare delle poesie. Penso che il folk debba essere questo. Cioè debba venire proprio dal popolo, magari da un ignorante che scrive una cosa interessante, una cosa piacevole. Era la voce di Murolo in un'intervista rilasciata nel 1976 a Renzo Arbore. La lunghissima storia discografica di Murolo si chiude nel 2002 con il suo ultimo album Ho sognato di cantare, 11 canzoni d'amore realizzate con autori e musicisti napoletani. È difficile raccontare la storia di questo artista. Ma questi modo e brigge da tazze caffè parite, sottenito zucchero e in coppa marasita, ma è tanto che ha già avuto. Ha avuto una vita bellissima, ma insomma basta ricordare il fatto che la sua carriera è cominciata a tragare a 47-48, scalinatella, e poi è andato avanti collezionando sempre grandissimi successi, finché non ha fatto questa antologia napoletana straordinaria e ha continuato a fare antologie di grandissimi compositori napoletani come Salvatore Di Giacomo. Ancora mezzo pane, c'è danna già mattina, ho solo che cantava una canzone insieme a te. Amore innamorata, ma mai una volta sola. Vai già via? Lo sai, devo partire. Non credevo partissi stasera. Anzi, mi sono trattenuto anche un giorno di più. Vai prima a Milano o a Torino? A Milano. Quanto tempo sarei via? Un paio di mesi. Mi dispiace. Dispiace anche a me. Il sole di Napoli, io che ho girato tutto il mondo, veramente ho girato tutto il mondo, ma un sole in Napoli non l'ho mai trovata una da fare. Napoli è un solo amore, Napoli è attore mare, Napoli è una carta sporca e nessuno se ne importa, e ognuno aspetta.